Di 13 settembre 2022. Ciao a tutte e a tutti, questa è Radio Onda Rossa, ricominciano da Cosa Città. Un applauso al nostro fonico che si ricorda perfettamente come funziona tutto il macchinario qua. Grazie, complicatissimo. Grazie. Ma che grazie, grazie. Oh, cominciamo subito. Ciao a così. Tutte, ciao a tutti. Ciao Fabio. Mi presento da solo. Allora, reduce tu, in tempo, reduce da un corso intensivo di corsivo, giusto? Però non me la sento di farlo. Quindi sì. Oggi tu cioè faremo la puntata in doppia lingua. No, in corsivo. No, non me la sento, non mi sento ancora così bravo. Mi dici solo amio? No. Non te la sento. Troppo timido, vabbè. Grazie. E allora spero che durante questa estate in cui non siamo andati in onda avete contribuito a finanziare le casse di questa radio, Radio Onda Rossa, casse che ne hanno molto bisogno, ne abbiamo tutti e tutte quante bisogno. Se non l'avete fatto, fate ancora in tempo sul sito www.ondarossa.info e vi ricordo anche i nostri contatti, lo 06 49 17 50 se volete mettervi in contatto con noi. Allora socio, prima puntata. Mazza quanto stai carico? Sto carico a pallettoni. Mettendo che abbiamo un po' paura. Vai. Prima puntata che abbiamo scelto. Nel deserto, Ale, prima che mette la domanda. Sì, perché faceva caldo quest'estate, ha fatto caldo, quindi siamo stati ispirati da... No, siamo stati ispirati dal fatto che è un po' di tempo che ci pensiamo e che il deserto è luogo di nascita e di ispirazione artistica di tanti grandi artisti, di tanta grande musica. Abbiamo diviso la puntata in due parti. Nella prima parte ce ne andremo esclusivamente nel Sahara. Sahara, che ricordo a Alessandro e tutte le persone che lo sappiano, è il deserto caldo più grande del mondo, abbraccia quanti stati? Ha le 11 stati africani. Ha 9 milioni di chilometri quadrati di superficie, è lungo circa 5.000 chilometri, cioè dall'Oceano Atlantico al Mar Rosso, ed è largo circa 2.000 chilometri dal Mediterraneo fino alle regioni centrali dell'Africa. Altre informazioni di carattere scientifico, quale se vuoi te le posso dare successivamente. Va bene. Comunque la puntata sarà molto lunga, quindi a parte le battute, siamo davvero nella prima parte in Africa, stiamo nel Sahara. E noi ci occuperemo, diciamo, prevalentemente di musica sahariana, Tuareg, di etnia Tuareg. E c'è, tra l'altro, questo ve lo diamo come informazione, poi non scendiamo troppo nei particolari, c'è un dibattito in corso, perché comunque nel corso di questi ultimi anni, probabilmente di questi ultimi 20, più o meno, diciamo, c'è stata una riscoperta, una rinascita della musica sahariana. Sì. E quindi c'è un dibattito perché tanti degli artisti che anche noi abbiamo in scaletta sono comunque prodotti e distribuiti da etichette americane ed europee. La paura è semplicemente che si tenda poi un po' ad omologare questa musica, il tutto. Sì, diciamo, per far sì che è comunque una musica che deve vendere perché arriva sul nostro mercato discografico, e quindi si tende un po' a limarla per i nostri gusti, negli arrangiamenti, nella scelta dei brani. Comunque, insomma, questo è poi anche difficile dire dove finisce la contaminazione sana. Sì, e dove... esatto, però comunque è un dibattito che si fa, e quindi noi ve lo ve ne diamo conto. Non entriamo nei particolari oggi. Però iniziamo invece ascoltandoci un artista che è uno dei più, senza dubbio, uno dei più interessanti musicisti della sua generazione. Si chiama Mdou Mokhtar, è un chitarrista. Lui viene da una famiglia Tuareg del Niger, ha 5 album all'attivo, il primo nel 2008, poi è stato ristampato da un'etichetta americana di Portland, si chiama Sahel Records. Ricordatela, perché sarà un'etichetta che ritornerà nel corso della nostra puntata, molto molto importante. E poi la consacrazione sul nostro mercato discografico lo scorso anno, quando è passato alla Matador. Mokhtar fin da bambino era appassionato di Jimi Hendrix, e soprattutto il suo idolo era Eddie Van Halen. Ha sempre cercato di mischiare la musica, Tuareg con il rock occidentale che era, diciamo, abituato a sentire. La sua famiglia era molto contraria al fatto che suonasse la chitarra elettrica e quindi lui se ne costruì una e addirittura al posto delle corde, pensa, aveva messo i fili dei freni della bicicletta. Pensa che tenacia, proprio dice no, me la voglio proprio imparare sta chitarra. Poi fortunatamente è riuscito a comprarsene una ed è una fortuna perché i suoi riff sono spaventosi, è un rock blues di pura energia sahariana. Il suo ultimo album uscirà nel 2021, si chiama Afrique Victim. E noi proprio da questo disco ci ascoltiamo questa stupenda Taliat, lui è Mdou Mokhtar. Questa era Taliat, lui era Mdou Mokhtar in questa puntata dedicata al deserto. Siamo nel Sahara, senti che caldo. Siamo in Niger, ancora più precisamente, restiamo in Niger con Al-Husseini Anivolla, il chitarrista e cantante anche lui Tuareg, che si caratterizza soprattutto per il fatto che nei testi, oltre alla bravura per carità, dà voce alle preoccupazioni per la perdita di diversità culturale e biologica della sua terra e per gli effetti della crisi climatica sulle popolazioni nomadi come appunto i Tuareg del Sahara. durante un tour in Europa, tra l'altro, Nivola incontra Jerome Mesmur, che per chi non lo conoscesse è un chitarrista e soprattutto un produttore di grido di Addis Abeba e Etiopia. Tra i due scatta immediatamente una scintilla, decidono di fare un disco insieme, decidono di registrarlo in una zona franca, per così dire, infatti lo registrano dal vivo a Nairobi insieme a un super gruppo di musicisti etiopi, e viene pubblicato, come per poi continuare il discorso che faceva Ale prima, da un'etichetta tedesca storica e molto attenta alla musica etnica, la Piranha. Il disco esce nel 2020, purtroppo esce proprio poco dopo la pandemia, l'inizio del lockdown, in piena pandemia, quindi non è fortunatissimo, non è molto fortunato il disco, almeno alle nostre latitudini. In un primo tempo adesso si sta recuperando, un album è davvero magnifico, ha un titolo bellissimo, infatti si chiama Afro Pentatonism, come a dire che sono le scale pentatoniche, il ponte sonoro che collega questi due grandi musicisti e le loro rispettive culture musicali. Da una parte c'è il desert blues dei Tuareg e del Sahara, dall'altra parte c'è l'Ethio Jazz, Mulatu Ashat, che è il nome più noto in Italia e in Europa, ma insomma sono una scena enorme, importantissima e piena di una miniera di grande musica. La canzone che abbiamo scelto di farvi ascoltare si chiama Alger, Alger significa pace in lingua Tuareg, è uno dei brani più ispirati in scaletta, l'atmosfera è calma, rarefatta, Anivolla canta dei conflitti che attraversano la sua regione, la sua terra, e dei compiti che attendono le nuove generazioni, canta nel testo: figli di questo paese, proteggete la pace. Loro sono Alueseni Anivolla e Jerome Mesmur, la canzone è Alger. Questo era Alger su Radio Onda Rossa. Dunque, il gruppo che probabilmente ha contribuito maggiormente, anche quello poi più famoso a livello internazionale, a questa nuova riscoperta della musica sahariana, penso senza paura di essere smentito, che sono Itinariwen, un gruppo attivo fin dalla fine degli anni 70. Loro sono originali del Mali, poi sono stati costretti all'esilio a causa della guerra. Il loro nome vuol dire deserto, o i ragazzi del deserto, a seconda, diciamo, del contesto in cui il loro nome viene usato, si sono fatti un nome proprio grazie a delle esplosive session all'interno proprio del Sahara durante le traversate. Si sono conosciuti, hanno iniziato a far musica, poi diciamo nel corso degli anni la formazione è cambiata diverse volte, in un campo di addestramento in Libia, dove si avvicinarono alla lotta armata insieme ad altri combattenti Tuareg. E tutto questo ovviamente si riversava anche nei loro testi. Poi oggi hanno scelto di interrompere la lotta e di dedicarsi completamente alla musica. L'anno di svolta avviene nel 1998, quando si esibiscono in Europa e vengono a contatto con la band francese Il Lojo, e insieme a loro, e qui ci concentriamo soprattutto su, diciamo, un festival che Itinariwen e Il Lojo hanno contribuito a organizzare, anzi sono stati proprio loro gli ideatori. Si chiama il Festival Au Desert, si è tenuto in Mali, la prima edizione, se non sbaglio, nel 2001. Per tanti anni è stato un punto di riferimento per la musica sahariana, ma anche una vetrina per tanti gruppi che proprio grazie al festival si sono fatti conoscere a livello internazionale, perché andavano proprio ad assistere anche tanti tale scout, tanti addetti ai lavori di etichette americane ed europee, che andavano appunto a cercare dei nuovi talenti da proporre sul mercato discografico americano ed europeo. Poi il festival è andato avanti per diversi anni, tantissimi sono i nomi che sono usciti e tanti sono stati anche gli apprezzamenti da parte di star della musica rock, da Tom York, Santana, Bob Dylan, Damon Albarn, insomma, fino al 2012. Con l'acutizzarsi della guerra il festival è stato sospeso. Inizialmente questa sospensione è stata temporanea, poi però ogni anno veniva sospeso per motivi di sicurezza, e di fatto questa sospensione è diventata poi di fatto una chiusura, visto che non si tiene più appunto il festival da ormai una decina d'anni. Noi abbiamo scelto di ascoltarci, esiste un album che è la registrazione completa dell'ultima edizione del festival. Io non so invece questa edizione dalla quale abbiamo preso questa registrazione di Itinariwen a che anno risale, non ho trovato questa informazione, ma ci interessa poco perché ci restituisce un gruppo nato. A me sarebbe interessato molto. Sarebbe interessato molto il 2006. Un gruppo nato per suonare dal vivo, un gruppo che lo ha fatto per tanti anni. Qui lo troviamo inciso sul disco in una esibizione. La canzone si chiama Aldakan Manin. Loro sono Itinariwen. È uscito tra l'altro, mi sembra, un paio di giorni fa il nuovo singolo, che il preludio è anche di un disco che aspettiamo, e come dicono loro sul loro sito, il disco migliore di Itinariwen ancora deve uscire e probabilmente mai uscirà. Aldakan Manin, live dal Festival Au Desert. I'm Aldakan Manin Tina Riu. Il festival si svolgeva a Timbuktu, non l'ho detto, eh? No, non l'hai detto. Non l'ho detto. Vabbè, lo so, però hai fatto capire che interessava l'area del Mali. E comunque, se i Tina Riu sono certamente, come diceva, il nome più importante e che più di peso della musica sahariana, più di peso almeno alle nostre latitudini. Aspiramela di più quell'H. No, non lo dirò mai più. Invece il secondo nome, se ci fosse una classifica, è certamente quello di Bombino. Bombino è salito alla ribalta in anni più recenti rispetto a Tina Riu, comunque è un nome importante. Lui in realtà si chiama Omara Mokhtar e Bombino è la storpiatura di Bambino, un soprannome proprio in italiano, un soprannome che gli hanno dato quando era ragazzo. Non sono riuscito a trovare informazioni più puntuali. È un rock Bombino, come diceva Fossati. È un rock Bombino, sì. È uno dei più amati chitarristi rock blues in circolazione, come avrete intuito. Non viene dal delta del Mississippi, ma anche lui è un Tuareg. Lui è nato ad Agadez in Niger. Agadez, per chi non lo sapesse, è l'avamposto più settentrionale in cui i migranti convergono prima di attraversare l'infernale distesa libica e del Sahara e poi sperare, ne lasciamo perdere, di arrivare prima o poi in Europa. Bombino è un musicista autodidatta, canta in Tamashek, che è una delle tre lingue tuareg, che in realtà non è soltanto una lingua quella tuareg. Anche lui si ispira a Jimi Hendrix, ma lui si ispira anche a Mark Knopfler. In un'intervista molto bella che ha rilasciato al New York Times ha raccontato di averli ascoltato entrambi a lungo senza sapere chi fossero, perché ha detto: quando una cassetta arrivava da Cadez via Deserto l'etichetta era quasi sempre cancellata e si ascoltava il nastro senza nessuna idea di chi lo avesse inciso. Vedo che Ale mi fa dei cenni. Sì, perché no, prima che finisci di presentare la canzone, prima di annunciarla, ricordami che devo dire una cosa. Ah, è promemoria in diretta, sì, mi pare. Sì, è promemoria in diretta. Faccio il possibile. La collaborazione con Dan Auerbach dei Black Keys, che nel 2013 ha pubblicato il suo album Nomad, quello lo stiamo ascoltando in sottofondo, e la Sliding Door che gli ha aperto, appunto, gli ha spalancato le porte della scena musicale internazionale. Molte sue canzoni hanno temi politici, su tutti la tutela dell'identità e della lingua tuareg. Suona spesso in giro per il mondo, ma a casa sua è Niamey, che è la capitale del Niger. Dice sempre in quell'intervista: non resto mai in tour troppo a lungo, vengo dal deserto e devo tornarci spesso, se non lo facessi mi sentirei perso, diviso in due. In un'altra intervista, questa volta per il Rolling Stone, ha raccontato che gli piacerebbe registrare un album del deserto americano, del Mojave, e ne parleremo più avanti, nello studio preferito di Josh Homme, anche di lui parleremo più avanti, il mitico Rancho della Luna. Ha però voluto sottolineare che il deserto africano è comunque, sta una spanna sopra il deserto americano, quello americano è vuoto, ha detto, è ovviamente il Bombino che parla, il deserto africano è pieno. Le dune cambiano colore, di notte prendono la luce delle stelle e diventano bianche. Noi dall'album Agadez del 2011, cioè prima del grande successo, ci ascoltiamo una canzone che il titolo, insomma, non ci ha fatto, ci ha tolto qualsiasi dubbio. La canzone si chiama Tenere, The Desert My Home. Ah, Ale, non ciufolo. Me l'ho ricordato. Devo non dire questa cosa, Fabio, perché noi adesso, prima di trasferirci nel deserto americano, c'è una cosa importante, perché comunque ci teniamo anche alla salute mentale degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sì. Allora, se capitate nel deserto del Sahara, magari fa una vacanza o decidete di andarvi a fungere, adesso tu mi alzi la mano. No, perché secondo me stai sbagliando deserto, stai parlando di una canzone? No. Vai, sto parlando di una canzone, vai. Sto parlando del fatto che comunque se vi capiterà o se vi è capitato e vi siete detti: ma com'è possibile questa cosa? In pratica, a un certo punto, passeggiando nel deserto, vi potrebbe risuonare nella testa Africa dei Toto. Quindi stai parlando di una canzone, però non è il deserto del Sahara. Come non è il deserto del Sahara? No, un altro. Ma veramente? Sì. Allora lo dici dopo, presenta la canzone. No, per me l'abbiamo detto, diciamolo, dai. Il deserto è il deserto della Namibia, che sta No, volevo dire prima di passare in America, certo. No, c'è avuto un lapsus, parlavi del deserto del Sahara, quindi ok. Perdonami. Vai. No, vedi. E quindi niente, in pratica, se capitate lì e sentite a un certo punto che vi risuonano le orecchie Africa dei Toto, sappiate che non è un'allucinazione, non state morendo di caldo e state per morire, perché un pazzo, perché modo adesso diciamoci la verità, ha creato questa installazione, ovvero un che è un generatore. Ma di fatto è un lettore MP3. Un lettore MP3 con che una si gassa. Ricarica con la luce solare, con una serie di casse intorno che fa suonare il loop 24 ore. Lui parla, nel sito parla di suonerà in eterno, in realtà non magari è già saltata la Geggio, anche perché lui comunque non ha la cosa curiosa che ci ha divertito a me, Ale, che lui non ha voluto dire dov'è. dove si trovava. Uno perché si fregavano le casse. E temeva atti di vandalismo, che forse sarebbero anche in questo caso giustificabili e giustificati. Vai, comunque, ripresenta Bombino. È Bombino, va. La canzone, già l'ho detto, Tenere the Desert My Home. Bombino, a nota questa città, puntata dedicata al deserto. Siamo in Africa, ci stiamo per spostare in America. C'è ancora siamo un Sahara. Poi si è fatto l'acqua aspirata. Dai. Ok, e sempre a causa della guerra, molti paesi coinvolti nei conflitti appartenenti soprattutto alla fascia territoriale del Sahel, a un certo punto hanno perso la possibilità di accedere a internet e ai social network, che e spesso davano anche informazioni proprio in tempo reale sulla guerra, vietati ovviamente dai governi dei loro paesi. Il telefono cellulare è però rimasto uno strumento fondamentale, almeno da un punto di vista culturale, ma con un utilizzo, almeno per quanto riguarda la musica, più simile a quello che era per noi negli anni 80 il Walkman o comunque il registratore. Succede infatti che uno studioso, si chiama Christopher Kirkley, uno studioso di Portland, un etnomusicologo, durante un suo viaggio in questi luoghi sahariani, apprende che i giovani registrano e si scambiano la loro musica o quella che gli piace attraverso le schedine di memoria dei cellulari, le SD in pratica, che diventano, diciamo, l'accessorio più importante per i telefoni cellulari, e la scambiano registrano lì la loro musica, la duplicano, la passano ad amici, a parenti che la portano in giro, a loro volta la, diciamo, la passano ad altre persone e danno vita a questo particolare modo di diffusione della musica, facendo quindi crescere anche la fama di molti musicisti, molti di quelli che abbiamo ascoltato. Per esempio il primo Dumottar è diventato famoso proprio nell'ambiente salariano proprio grazie a questo sistema, grazie all'etichetta di Portland, la Sile Records, quella infatti che aveva prodotto Dumottar nel primo disco. Vengono quindi pubblicate due raccolte che si chiamano Music for Sahara Cellophones e sono molto molto interessanti perché ci restituiscono anche, diciamo, un'immagine nuova della musica diffusa tra le nuove generazioni che vivono nel e intorno al deserto, rock, pop, blues, ma anche che non pop. C'è solo desert blues, insomma. Non c'è solo desert blues, magari non ci arriva perché è questo adesso che vende il nostro mercato discografico, ma in realtà è pieno di influenze hip hop, dicevo, ma anche reggae. E noi abbiamo scelto un brevissimo, ma ci sembra abbastanza rappresentativo brano che abbiamo scelto. Si chiama Friday e lei è Enfant Libia, dura circa un minuto, sentite quanto è carino. Eccola qua, Enfant Libia, e questo era appunto Friday. Allora è arrivato il momento di spostarci negli Stati Uniti, ce ne andiamo, iniziamo dal deserto dell'Arizona. Ecco, facciamo un attimo di chiarezza. Vai, infatti, prego. Perché poi giustamente dici deserto dell'Arizona o diciamo deserto di Joshua Tree. Negli Stati Uniti ci sono quattro aree desertiche, tutte contigue tra loro. La più settentrionale è il Gran Bacino, è un'area che comprende gran parte del Nevada, l'ovest dello Utah, ed è un deserto che presenta inverni freddi, quindi non c'è nulla di musicalmente rilevante e comunque l'abbiamo tenuto fuori dalla nostra puntata. Poi c'è il deserto più importante, quello che si trova a cavallo tra la zona sud-est della California e quella sud del Nevada e anche quella sud-occidentale dell'Arizona, ed è quello che è detto il deserto di Mojave. È il deserto più tipico, con sole per praticamente tutto l'anno, pochissime concentrazioni e precipitazioni concentrate in inverno. Qui, per dire, dove c'è la Death Valley, che è una depressione a 85 metri sotto il livello del mare, dove le temperature sono infernali e dove fino a pochi anni fa c'era il record della più alta temperatura misurata sulla Terra, 54 gradi, è stato battuto lo scorso anno in Iran, si è arrivato a 55 o qualcosa del genere. Poi, e questo quindi, Gran Bacino, deserto di Mojave, siamo a due. Poi c'è il deserto di Sonora, più a sud rispetto al deserto di Mojave, quindi tocca la parte meridionale della California, la parte meridionale dell'Arizona, e qui le precipitazioni sono un po' più elevate. E poi c'è l'ultimo deserto, che è quello più a sud, il deserto di Chihuahua, ed è quello che tocca l'Arizona, il Nuovo Messico e la parte del Texas, quello forse più raccontato in qualche modo nei film, nella mitologia del western, nei film in cui si doveva varcare la frontiera verso il Messico. Scusate, questo è il momento Quark. Grazie, ho finito. Perfetto. E anzi, allora, facciamo, senti, un saluto caro a Piero. Un saluto a Piero. Dunque, noi facciamo un focus proprio sul deserto dell'Arizona, ma proprio un focus molto zoomato, perché ce ne andiamo a scoprire un fiore che è proprio tipico di questa zona e si chiama per l'esattezza il Selenicereus grandiflorus. E ora, io non sono un botanico e quindi le informazioni su questo fiore, dimmi. No, mi sono rimasto colpito che non sei un botanico. Ah, è vero, sì. E insomma, ho cercato informazioni su questo fiore e sono abbastanza contrastanti. Comunque, quello che ho capito, che dicono un po' tutti quanti, è che è un fiore che fiorisce a distanza di mesi o addirittura anni, e lo fa per una sola notte. La fioritura avviene appunto durante la notte e finisce con lo spuntare delle prime luci dell'alba. È proprio tipico e caratteristica, un cactus tipico di questo deserto dell'Arizona. Randy Spark, il leader degli Handsome Family, un gruppo dell'Illinois, che però poi tra l'altro da qualche anno si sono trasferiti ad Albuquerque, quindi in quella zona di deserto del New Mexico, lui ci ha spiegato di essere proprio personalmente a conoscenza di persone che sono arrivate alla pazzia pur di andare a vedere la fioritura di questo fiore, e quindi ha deciso di scriverci una canzone con un testo volutamente ambiguo, perché se lo leggete sembra un uomo che sta diventando pazzo, si reca nel deserto a commettere un omicidio. E tant'è che al momento che questa canzone, ovvero questa canzone monumentale, monumentale, che è Far From Any Road, che probabilmente conoscete tutte e tutti per essere la sigla della prima stagione di quella serie meravigliosa che è True Detective, per la sigla infatti loro hanno tagliato, diciamo, alcune parti, hanno rimontato la canzone facendo lasciando soltanto le strofe che si riferiscono quasi all'omicidio, diciamo, hanno scelto questo sistema. Comunque il brano è pazzesco, siamo nel deserto dell'Arizona, ci siamo spostati negli Stati Uniti, loro sono The Handsome Family e questa è la bellissima Far From Any Road. Fino all'ultima nacchera. Sì, sì, splendida. Splendida. Eravamo in Arizona, no? Restiamo in Arizona, presentiamo un gruppo a cui tengo particolarmente, sono i Giant Sand, sperimentali, anticipatori di tendenze e di suoni, fondatori con i Thin White Rope del Desert Rock. I Giant Sand da oltre 30 anni rileggono le radici della musica americana, protagonista proprio indiscusso del loro percorso artistico, il deserto. che dal luogo fisico lungo la carriera di Giant Sand, lungo la loro discografia, diventa sempre più poi un luogo cerebrale, un luogo della mente. Lo stesso Howie Gelb, il leader della band, a spiegarlo: nel deserto mi affascina il fattore dell'erosione, in queste superfici hai un tasso di erosione rapido, basta un niente e l'ambiente è diverso, cambia, non è più lo stesso, se piove poi la cosa è istantanea. Ecco, il sound della mia band ha a che fare con il concetto dell'erosione. Howie Gelb è proveniente dalla Pennsylvania, era un appassionato di country, di punk, di rock. Decise di trasferirsi a Tucson ancora molto giovane, appunto Tucson nel deserto dell'Arizona, il luogo d'origine del padre, dove poi lui è nato e ha passato l'infanzia. Qui inizialmente forma un gruppo che si chiama Giant Sandworms, i vermi giganti, un nome che aveva preso dal film di David Lynch, Dune. Però questa formazione non ha particolare successo, quindi viene sciolta, lui se ne va a suonare country in South Dakota, torna a Tucson e riprova a formare una band, questa volta li chiama Giant Sand, senza fare riferimento a nessun verme. E tra i musicisti che porta con sé, insomma, che si uniscono alla sua band, cioè, va certamente citato Chris Cacavas, che è il tastierista di un gruppo di Tucson, quindi con cittadini Green on Red. E nell'85 danno a stampa il loro primo album Valley of Rain, e che contribuisce al piano piano, insomma, a farli diventare, a farli uscire da Tucson, e quello che caratterizza la band è un suono acido, arido davvero, e diciamo selvaggio, se così possiamo dire. Sarà il primo di una serie di bellissimi album. La strada che seguono è quella di un rock di frontiera, visionario. Poi nel terzo album segnaliamo un nome, perché poi lo rincontreremo, e entra alla batteria John Convertino. Arriva un disco che è un po' una svolta, che è Longstand Rant, lo fanno in 3 giorni in una baracca a Rimbrook nel deserto del Mojave. L'album sancisce un po' il cambio di rotta della band, che diventa più sposa il lo-fi, la bassa fedeltà, un impatto musicale immediato e meno letterario, diciamo così. E da qui sarà il primo di 3 album che verranno identificati come la trilogia del deserto. Durante questa trilogia entra un altro nome che tornerà, che è Joey Barnes, un bassista. Vabbè, poi negli anni si alternano, la loro storia è ancora in corso in teoria, insomma negli anni a venire si alternano momenti di pausa, progetti paralleli di cui dopo vi parleremo, qualche disco capolavoro, fino all'unico disco, diciamo, che dovrebbe avere chiunque ami il rock a casa propria, Shore of Enchantment, un disco del 2000, il capolavoro indiscusso dei Giant Sand, disco che in qualche modo poi ne segna anche il crepuscolo. È un condensato bellissimo di ballate malinconiche e polverose. A proposito di deserto, rileggono in maniera molto personale la tradizione country e quella folk. Noi da questo album abbiamo scelto la traccia che apre questo disco bellissimo, si chiama Well Dusted. Alone. raccontare a grandi linee la storia dei Giant Sand che abbiamo appena ascoltato. Abbiamo nominato Joe Burns e John Convertino. Ecco, in uno dei momenti di pausa dei Giant Sand, che come dicevamo è un gruppo che è sulle scene da più di 35 anni, quindi insomma non staranno sempre insieme, immagino. No, e poi comunque di fatto l'unico membro sempre rimasto fisso è Howie Gelber, cantante, chitarrista e autore delle canzoni. Dicevo che in uno dei momenti di pausa dei Giant Sand, Barnes e Convertino, e siamo nella seconda metà degli anni 90, danno vita a un progetto parallelo chiamato Friend of Dean Martin, un grandissimo nome che per motivi di copyright, forse legato ai familiari di Dean Martin, e devono cambiare, e cambiano in Calexico, una band che conoscerete, immagino, che si dedica al recupero delle tradizioni messicane e dei suoni del confine. Anche nella loro musica è protagonista certamente il deserto, qui però forse più è folcloristico, più cinematografico, più pop rispetto all'approccio visionario e mentale di Howie Gelber e The Giant Sand. Non ci ascoltiamo però i Calexico, ci ascoltiamo un altro progetto ancora, che nel 97 ha messo insieme Barnes, Convertino, Howie Gelber con la straordinaria cantautrice e violinista Lisa Germano. I quattro si ritrovano riuniti in un progetto che si chiama OP8 e daranno alle stampe il bellissimo e poco conosciuto Slush. È un album dove la scrittura malinconica di Lisa Germano si sposa alla meraviglia con le sonorità dei Giant Sand. Scorrendo i titoli, anche qui è stato facile scegliere quale canzone mettere in scaletta. La canzone si chiama Sand. Man, she whispered, "Sam." 8, ci avviciniamo con ritmi desertici verso la fine della nostra puntata. Rotolando, ci spostiamo adesso dal deserto di Sonora a quello del Mojave, per l'esattezza nella zona di Palm Desert. Siamo nella valle di Coachella, dove insomma oggi è famosa perché lì si svolge il noto festival. Siamo quindi in California, luogo che, diciamo, a partire dagli anni 50 è iniziato a popolarsi di attori, personaggi dello spettacolo, perché cercavano la tranquillità non lontano da Los Angeles, siamo circa un'ora e mezza di auto, e quindi da Hollywood. Ma forse non solo attori, però insomma, no, anche inizialmente, diciamo, furono loro a i pionieri proprio. Sì. A trovare quest'area, c'era anche un clima che sembra favorevole. Poi un incremento notevole della popolazione si verifica nei primi anni 80. La pace, appunto, e la tranquillità sono i motivi per cui le famiglie, le persone anziane si trasferiscono lì, tutti motivi, per carità, molto validi. Un po' meno validi probabilmente lo erano per i ragazzi e ragazze che lì, diciamo, in questa zona trovavano però ben pochi svaghi. Quindi la musica ascoltata, ma soprattutto quella suonata, il punk, l'hard rock, diventa una delle attività ludiche più diffuse. E così nascono, diciamo, un fenomeno proprio tipico di quella zona, che sono i generator party, ovvero questi ragazzi che volevano suonare, non potevano farlo nella loro città perché davano fastidio, disturbavano, e quindi si trasferiscono all'interno del deserto e organizzano questa sorta di rave, questa sorta di illegali, non di musica techno ma di rock, portano i generatori, da cui il nome dei generator party, benzina, ci attaccano gli amplificatori, le chitarre, i bassi, tutto quanto, e danno vita a quel fenomeno, diciamo, che prende, a quella corrente musicale chiamata anche stoner rock. Stoner è proprio il fatto che loro anche consumavano parecchia marijuana e parecchi allucinogeni e quindi erano, diciamo, abbastanza stoner. C'è un gruppo in particolare che sugli altri risalta, un gruppo insomma senz'altro pioniere, ma anche poi a livello di qualità quello che è uscito più degli altri, che sono i Cayuse, un paio di dischi strepitosi, una vita anche piuttosto breve, perché credo che si siano sciolti nel giro di 4-5 anni. E c'è un personaggio, non c'erano più niente da dire, a un certo punto è come il grande gruppo che sono sciolti. Poi vabbè, i Cayuse che ci ascoltiamo intanto in sottofondo, sì, ci perdiamo nella loro storia, perché meriterebbe una puntata a sé, ma anche proprio questa scena meriterebbe una puntata a sé. Comunque i Cayuse fanno e sono quelli proprio che danno il marchio allo stoner rock, e tra i personaggi chiavi di quella scena musicale che Ale ha appena raccontato, c'è un personaggio che fa da ponte, poi che supera la fase dei generator party, poi diventerà la stagione delle Desert Session. Il personaggio è Josh Homme, che insomma conoscerete tutti come leader dei Queens of the Stone Age e per tanto altro. Però un passo indietro, restiamo nella stessa valle per raccontare un luogo e due personaggi che rientrano in questa storia, cioè insomma che hanno tessuto i legami che hanno reso possibile poi una scena rock così legata al deserto, così, così importante e così ricca di grande musica. E questi due personaggi sono Dave Ketching e Fred Drake. Del secondo non c'è informazione, il primo era un cantautore di Memphis che a un certo punto ha abbandonato la musica come interprete per andare con il suo amico appunto a isolarsi nel deserto, prendere una piccola casetta e adibirla a studio di registrazione. Un'idea abbastanza folle quando l'hanno attuata loro, perché erano lontani miglia e miglia dalla città più vicina, dalle città grandi più vicine, cioè Los Angeles e San Diego. Hanno riempito la casa di microfoni e di registrazioni di ogni tipo, anche i più stravaganti per quanto si sa e per quanto non ho letto. Non era certamente uno studio pensato per Major, però piano piano insomma cominciano a bussare alla loro porta nel deserto del Joshua Tree, che è anche questo è uno dei nomi in cui viene chiamata quella parte del deserto del Mojave, e tra i primi appunto a varcare la soglia ci sono proprio i Cayus, che lì Arancio della Luna, non l'ho detto, questo è il nome dello studio che hanno fondato. I Cayus registreranno le loro ultime tracce uscite postume in un split con un altro gruppo che, se non ricordo male, si chiamano i Pool, e insomma, e da quel momento in poi, proprio dalla registrazione dei Cayus in poi, comincia l'epoca d'oro del Rancho della Luna. C'è una processione infinita, neanche li nominiamo, di artisti, di musicisti che vanno lì, che bussano alle porte dei due e che vogliono registrarci, registrare Oggi è Mare. Canzoni, tra l'altro, che venivano composte la mattina e registrate nel giro di 2 o 3 giorni. Proprio una. Sì, infatti adesso sto rapponendo due storie. Adesso è comunque uno studio in cui un artista va, PJ Harvey va e registra un suo album. Poi sono. O meglio, questo si sovrappone anche ad altri momenti diciamo che sono stati passati alla storia, alla cronaca, anzi come Desert Session, cronaca perché stanno ancora uscendo, l'ultimo è uscito nel 2019, la prima nel 1997, e anche se in realtà c'è stato un buco di circa 16 anni fra il volume 10 e il volume 11, comunque dopo questo buco Josh Homme e gli altri hanno continuato a lavorarci. E The Desert Session appunto è la riproduzione non troppo fedele, immagino, cioè faranno dei tagli, non sarà tutto buona la prima, ma comunque delle gemme che fanno una serie appunto enorme di musicisti e non ci ripetiamo. Restiamo su Josh Homme perché poi sì, arriviamo alla canzone che vogliamo presentare. Come hai anticipato tu, poi lui, diciamo, della metà degli anni 90 è andato prima a Seattle, una collaborazione con gli Screaming Trees, ha conosciuto Mark Lanegan, ha conosciuto Dave Grohl, e parallelamente a tutto questo, evidentemente erano anni particolarmente prolifici da un punto di vista artistico, ha dato vita appunto al progetto dei Queen of the Stone Age. Non andiamo troppo lunghi, 2 album nel 98 e nel 2000. Nel 2002 esce il 27 agosto, quindi pochi giorni fa, un po' ovunque avete incrociato l'omaggio da parte di siti e riviste musicali per i 20 anni di questo capolavoro. Si chiama Soul for the Deaf e partecipano appunto. Grande titolo poi. Mark Lanegan. Canzone per i sordi. E Dave Grohl. È semplicemente un viaggio in auto attraverso il deserto tra Los Angeles e Joshua Tree, accompagnati dalle radio locali che. Insomma, finte che passano tra una traccia e l'altra del disco, e Joshua Tree sarà anche la fine del nostro viaggio di questa sera. Noi ci ascoltiamo da Song for the Deaf, Mosquito Song, Queen of the Stone Age. Suck your blood and leave you there all alone, just skin and bone. When you walk among the trees, listen to the leaves. The further I go, the less I know, the less I know. Un trillino sui Queens of the Stone Age, prima puntata di Note Cose Città, e allora riparte Mosquito Song. I know the sun is hot, mosquitoes come, suck your blood and leave you there all alone. Listen to the leaves. The further I go, the less I know, the less I know. Where swallow you whole, skin and bone. Cutting boards and hanging hooks, bloody knives, cooking books, promising you won't feel a thing at all. Swallow and chew. And the life says, a parlare dopo Mosquito Song, però bisogna farlo. No, anche perché ci aspettano altre due grandi canzoni, quindi allora, siamo un po' in ritardo, però abbiamo ancora due. Vabbè, la prima puntata scarica, poi abbiamo. Ma sì, poi dopo prendiamo il ritmo e faremo ancora più ritardo. Sì, stiamo raccontando un sacco di storie, dai. Chi è interessato a restare all'ascolto ci perdonerà per la lunghezza. Adesso il personaggio che presentiamo, il mio ultimo personaggio, è Billy Gibbons. Forse il nome non vi dirà nulla. Chi è Billy Gibbons? Appunto, il nome non mi dirà nulla, però. E se ve lo descrivo lo riconoscerete sicuramente. Suona la chitarra, ha una barba lunghissima e compare in un film che è Ritorno al Futuro 3 insieme al suo socio dei ZZ Top, uno straordinario cantante e chitarrista, forse un po' troppo sottovalutato qui da noi. Però qui Billy Gibbons, ho nominato lui perché appunto parliamo di un suo disco solista. Il disco si chiama Hardware ed è uscito nel 2021, il suo terzo disco solista. Probabilmente non vedremo più album dei, non ascolteremo più album degli ZZ Top. Comunque questa storia c'entra e come nel deserto, perché la canzone, allora, perché è stato registrato in uno studio del deserto, e per dire che la storia che abbiamo raccontato prima legata al Rancho della Luna ha fatto proprio proseliti. Adesso sono, loro sono stati i primi, cioè, sono diversi gli studi di registrazione nei, nei vari deserti americani. Qui ve lo faccio raccontare da lui, cito a un certo punto, lui dice: nel giugno 2020 è stato Matt Sorum, per chi non sapessi chi è questo tizio, il batterista dei Guns N' Roses, quello biondissimo con la bandana, molto anni 90. Comunque nel giugno 2020 è stato Matt Sorum a telefonarmi e dirmi: non so tu, ma io sono pronto a fare qualcosa e fare rumore, fa proprio al caso nostro. Che ne pensi? Poi parlano proprio così gli americani, sembra di sì. Che ne pensi di uscire a dare un'occhiata al nuovo studio di registrazione? Mettici un fuck ogni tanto. Ma è fuck. Io ho risposto, siamo in fascia protetta. Io ho risposto: questa è musica per le mie orecchie. Che hai in mente? E lui: oh, c'è un posto vicino a Joshua Tree. Pensavo si riferisse al Rancho della Luna, dove avevo già lavorato con Josh Homme. Ma Matt ha detto: no, è proprio dall'altra parte dell'autostrada. Non solo era dall'altra parte, ma 20 miglia e mezzo al deserto. Quando siamo arrivati ho pensato: ok, mezz'ora giusto per dare un'occhiata. Quella mezz'ora, quei 30 minuti sono trasformati in 3 mesi. Non ce ne siamo andati finché non abbiamo concluso l'album. E appunto sta raccontando di Hardware. Hardware, e insomma registrarlo poi appunto col l'ex batterista dei Guns e con altri due personaggi che non staremo a dire. E è un album in cui si sente tanto il deserto. La canzone che abbiamo scelto, la, che poi è la più bella tra le 12 in scaletta, è dedicata al deserto in modo esplicito, si chiama Desert High. Qui Gibson racconta con la sua voce, parla più una prosa baritonale che un cantato. Comunque racconta di atmosfere notturne, di vasti da inquietanti, di sabbia, di cactus, di serpenti a sonagli. Cioè fa proprio, insomma, i titoli di coda della nostra puntata. Non mancano due omaggi a due grandi artisti, entrambi legati a doppio filo al deserto. Uno lo stiamo ascoltando, è Lucertola, Jim Morrison con i Doors. L'altro, a cui Ale dedicherà la chiusura di questa puntata, è il grande Gram Parson. Io qua ho finito, vostro onore, Billy Gibbons, scusate, Desert High. Billy Gibson, Desert High. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Come di consueto, le buone abitudini non si cambiano e quindi abbiamo un omaggio alla fine della nostra puntata. L'ha nominato Fabio nel, appunto, presentando Desert High. Lui è Gram Parsons, considerato un pioniere del movimento country rock dalla fine degli anni 60 agli anni 70 fino alla sua morte il 19 settembre 1973 all'età di 26 anni, quindi tra pochi giorni si celebrerà la scomparsa di Parsons. Ma sebbene Graham abbia ottenuto un certo successo nella vita, non è mai stato una superstar, ma lo ha fatto influenzando molte band, tra cui quella del suo grande amico Keith Richards dei Rolling Stones. È stato un membro di due gruppi importantissimi, Birds, Flying Burrito Brothers, e poi anche un ottimo seguito nella carriera solista. Dunque, alla fine degli anni 60, il Joshua Tree, in seguito sarebbe diventato poi un parco nazionale, divenne il ritrovo di molte celebrità e musicisti. Parsons amava andarci e ci ha fatto anche moltissimi servizi fotografici, alcuni li trovate anche in rete. Lui amava soprattutto sballarsi tantissimo, passeggiare per questi panorami e poi la sera sdraiarsi a guardare le stelle cercando UFO nei cieli. E pochi mesi prima di morire, durante il funerale di un amico, quindi siamo sempre nel 1973, Parsons e Kaufman, il suo amico e manager, si mettono a discutere dicendo che se uno dei due fosse morto prematuramente avrebbe voluto che il suo corpo fosse portato nel deserto di Joshua Tree. L'amico avrebbe dovuto bere un ultimo drink insieme al cadavere e poi bruciare il corpo nel deserto. Pochi mesi dopo, 17 settembre 1973, Graham si ferma nella stanza 8 del Joshua Tree Inn per un paio di giorni con alcuni amici per festeggiare le registrazioni del suo ultimo album. A proposito, se volete andare a vedere la stanza 8 al Joshua Tree Inn, sappiate che la proprietaria ci fa sapere che ormai non è rimasto nulla di quello che c'era al tempo di Parsons, soltanto un piccolo specchio. Comunque, non c'era Kaufman in questo viaggio e Parsons ha consumato moltissimo alcol e droga in questi due giorni prima di addentrarsi nel deserto, e dopo due giorni di feste molto pesanti va in overdose di morfina e di alcol. Fu immediatamente chiamato Kaufman, ma quando arrivò all'inn il corpo di Graham era già stato rimosso, era all'obitorio dell'ospedale nella Yucca Valley. Lui andò nella stanza 8, ripulisce tutto, ogni prova di droga, e se ne torna a Los Angeles. Il giorno dopo Kaufman chiama l'obitorio nella Yucca Valley e scopre che il corpo sarebbe stato portato all'aeroporto internazionale di Los Angeles e poi trasportato in aereo a New Orleans, dove credo vivesse il padre lì. E quindi che ha fatto? Ha chiamato il servizio funebre della compagnia aerea e ha scoperto che il corpo sarebbe arrivato la sera stessa. Ha chiamato un amico che era a conoscenza del patto in caso di morte e ha preso in prestito un carro funebre, lo ha noleggiato. Non avevano dei vestiti adatti, quindi hanno pensato bene che gli abiti da tour fossero adatti, quindi si presentano in jeans, stivali e cappello da cowboy. In tutto questo, dopo aver bevuto delle considerevoli quantità di alcol, caricano il carro funebre, la birra e il Jack Daniels e si dirigono all'aeroporto. Kaufman e il suo amico Michael Martin arrivano sulla banchina di carico proprio mentre il camion si avvicinava alla bara di Parsons per caricarlo sull'aereo. Un Kaufman ubriaco in qualche modo riesce a convincere l'impiegato della compagnia aerea che la famiglia Parsons aveva cambiato i piani e voleva spedire il corpo privatamente su un volo charter, e in qualche modo riescono a convincerlo. L'uscita dall'aeroporto fu comica, viste le condizioni nelle quali era. Il carro funebre va a sbattere durante le manovre diverse volte sotto gli occhi di un funzionario di polizia che, sì, è vero, si insospettisce, però poi alla fine li lascia andare. Quindi Kaufman e Martin riescono ad uscire dall'aeroporto, si fermano qualche chilometro più avanti in una stazione di servizio a Capazon nell'interstatale 10, riempiono una tanica di benzina e vanno a Joshua Tree. Guidano finché non sono troppo ubriachi per andare oltre, e a un certo punto scaricano la bara del loro amico e Kaufman inizia a sentire in lontananza le sirene della polizia, che capisce che lo stavano cercando, quindi rapidamente aprono la bara, il tempo di un brindisi in onore dell'amico scomparso, e poi la benzina e il fiammifero fanno il resto. A un certo punto arrivano i fari sul posto, però i due fortunatamente avevano erano riusciti intanto, cioè, ad allontanarsi. Ma secondo te è stato il poliziotto iniziale dell'aeroporto? È una storia assurda che infatti è stata anche motivo di poi film e documentari, certo, perché è veramente, sembra un film. Quindi si allontanano e si dirigono a casa a Los Angeles. La mattina dopo i giornali riportavano questa notizia, si pensava inizialmente che la cremazione amatoriale, diciamo, fosse un rituale satanico. E Kaufman sapeva quindi che la polizia lo stava cercando. Dopo alcune settimane lui e Martin si costituiscono, sono comparsi in tribunale il giorno del 27° compleanno di Parson, il 5 novembre 1973. All'epoca non esisteva alcuna legge contro il furto dei cadaveri, e poiché, diciamo, un cadavere non ha un valore, no, intrinseco, i due vengono accusati e condannati per furto per reato minore e per aver rubato la bara. Quindi ricevono una multa di $708 per la bara e $300 a testa per il corpo. Poi alcuni anni dopo Kaufman si imbatte in Keith Richard e Richard dice: ho sentito che ti sei preso cura del nostro amico, ti ringrazio tanto. Oggi ci sono concerti annuali e molti album anche di tributo a Graham Parsons. Le persone che visitano e soggiornano intenzionalmente nella stanza 8 del Joshua Tree e vanno a visitare l'area anche a Cap Rock all'interno appunto del parco nazionale, però essendo un parco nazionale appunto i monumenti personali, gli omaggi che i fan portano vengono rimossi dal parco, quindi il sito ha sempre un aspetto diverso. Lasciano oggetti o dipingono i massi che poi vengono rimossi dal parco e quindi il ciclo ricomincia. Noi ci ascoltiamo il disco che è uscito postumo, quello per il quale Parson era andato a festeggiare la fine della registrazione, è il suo ultimo album. Ci ascoltiamo un pezzo secondo me magnifico che è Brass Buttons. Confermo. Ringraziamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci hanno telefonato nel corso di questa puntata, ci fa molto piacere, speriamo di avervi tenuto compagnia per questa insomma oretta e mezza scarsa. Noi ci sentiamo la settimana prossima, penso che possiamo anticiparvi, sì, il no, tema della nostra puntata sarà un omaggio, visto che anche qui ricorre un anniversario al grande, grandissimo, vai, Giacomo Pastorius. Chiudiamo con Graham Parsons, vi ricordiamo di sottoscrivere sempre Radio Onda Rossa. Noi vi ringraziamo per essere stati all'ascolto e questa è Brass Buttons. Ciao. Doesn't know she's gone.